Luci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti da Anna Marino a Voce di Piccola Impresa, Idee Anticrisi. Oggi parliamo di sanità digitale, e cioè di quelle idee anticrisi che possono anche rivoluzionare un campo come quello della salute tradizionale, delicato e fondamentale, trovando soluzioni che abbattano i costi senza intaccare il diritto a essere curati al meglio, anzi, aiutando pazienti e familiari a vivere meglio malattie e problemi o addirittura a prevenirli in modo efficace e veloce, merito di imprenditori come quelli che ci raccontano oggi le loro storie di innovazioni tecnologiche che coniugano il bene della salute con il successo anche economico. I 7 giovani ingegneri di Centerview, www.centerview.com, avevano un progetto chiaro: creare un apparecchio diagnostico in grado di rilevare le gravi malattie dell'occhio in tempo utile per evitare la cecità, con conseguente risparmio di ingenti costi sociali. Una macchina di facile utilizzo e di basso costo, nell'idea di Giuliano Barbaro e di Stefano Gallucci, i due amministratori delegati di Centerview, hanno creduto subito. M31, www.m31.com, l'incubatore padovano di nuove aziende guidato da Ruggero Frezza e il conte Giannino Marzotto. Giuliano Barbaro racconta questa bella storia. Anticrisi. Nella seconda metà del 2007 essenzialmente, perché un gruppo di colleghi tra i 30 e i 35, tutti assieme, parte di una multinazionale giapponese che operava nel settore comunque dell'occhio, decide che c'è spazio e c'è maturità del mercato per trasformare quello che era uno strumento per lo specialista in una cosa diversa. E si incontra, cosa fondamentale fin dai primi giorni, con M31. Che fa fin dagli inizi da propulsore all'idea e da sollecitatore per questi giovani e insicuri pseudo-imprenditori. Quindi la vostra idea è nata praticamente in contemporanea con l'incubatore. Qual è stata appunto questa vostra idea che ha dato il via alla vostra azienda? L'idea era di trasformare uno strumento per la diagnosi dello specialista, dell'occhio, dell'oculista, in uno strumento con caratteristiche diverse per fare medicina preventiva e quindi fare screening di malattie dell'occhio che sono invalidanti, portano alla cecità e sono prevenibili. E la chiave di volta dell'idea è che la medicina preventiva, in questo caso dei controlli preventivi periodici, deve essere diffusa per essere accessibile e quindi deve uscire dalle strutture specialistiche. E da lì poi abbiamo concretizzato tecnologicamente l'idea in sistemi diagnostici altamente connessi alla rete che hanno determinate caratteristiche che li rendono poi usufruibili in programmi di screening. Il principio che volevate perseguire aveva bisogno di competenze. Come sono nate queste competenze, dove e come sono state accolte dall'incubatore? Beh, le competenze sono frutto di esperienza professionale cumulativa del gruppo dei fondatori. C'erano delle idee abbastanza chiare, c'era un piano industriale pluriennale, c'erano 3-4 prodotti già definiti e c'era soprattutto già un impianto di network di relazioni nella comunità oculistica mondiale. Abbiamo deciso che il salto valeva la pena e abbiamo seguito la fase di stesura del piano industriale assieme al 31, la ricerca del socio finanziatore o dei soci finanziatori e poi siamo partiti nel 2008 in aprile. Lei è fondatore appunto di Centerview. La fondazione è nata all'interno dell'incubatore. Come è stata la vostra esperienza? Beh, il contributo dell'incubatore, che è di fatto parte come socio di riferimento, poi è fondamentale fin dai primi giorni per aspetti di logistica, aspetti legali, aspetti di diritto societario e aspetti poi di management e di controllo di gestione fin dai primi tempi. Nonché per la rete di conoscenze che M31 porta e sviluppa negli anni che seguono e per la prossimità, che poi sarà un elemento fondamentale per le nostre tecnologie, con le altre startup del gruppo con cui ci si, virgolette, contamina e ci sono scambi di competenze che sono mutuamente utili. Segnaliamo il sito e diciamo appunto quale sviluppo avete avuto alla fine, i numeri. Il sito della società è www.centerview.com. Diciamo la fase iniziale, che ha richiesto un investimento iniziale di 1,5 milioni, e inizialmente eravamo in 7, poi vede la partenza di una fase successiva, quando i primi prodotti arrivano sul mercato. Adesso sono tre, e poi la svolta è nel 2011. Essenzialmente nel 2011 abbiamo moltiplicato per 7 il fatturato e raddoppiato il numero di addetti. Nel momento in cui siamo riusciti a in qualche modo far conoscere il brand, che è stato uno dei fattori limitanti, poi la diffusione internazionale ovviamente del prodotto, perché non esisteremmo se non fossimo internazionali dal primo giorno, ha portato allo sviluppo di settori nuovi di mercato, che erano quelli a cui puntavamo fin dall'inizio, che sono quelli appunto sganciati dagli ospedali, dalle strutture altamente specializzate e invece più vicini alla popolazione, più vicini a quello che chiamiamo primary care, ovvero al primo punto di contatto tra il sistema sanitario e il cittadino che ha bisogno di una prestazione. Quali altre relazioni, come non so, per esempio Startup Business o altri organi avete, o altri eventi avete frequentato per farvi conoscere? Beh, la nostra presenza internazionale negli ambiti fieristici e congressuali del settore, per cui regolarmente noi viaggiamo in tutto il mondo per essere presenti e poter parlare con i soggetti medici e non medici che guidano il settore industriale di riferimento. Consigliate il vostro metodo? Consigliamo il nostro metodo, che crolla se manca anche uno solo degli elementi chiave. Quindi l'idea deve esserci e devono esserci le competenze, ma senza il contesto reso possibile dall'acceleratore incubatore e senza la presenza di un backup finanziario, che per noi è arrivato dagli investitori, non certo dalle banche, il progetto non parte. Un altro dato interessante secondo me è che noi tuttora investiamo qualcosa come il 30% dei nostri costi complessivi in ricerca e sviluppo. Un'altra idea, buona sotto tutti i punti di vista, un dispositivo wireless, cioè senza fili, che permette il telecontrollo dei parametri essenziali di un paziente, che ne consente perciò le dimissioni dall'ospedale senza compromettere il decorso della guarigione. È l'idea della WIMED di Pontedera, www.wimed.it, startup medicale spin-off dell'Università Sant'Anna di Pisa, incubata presso il CERFIT Pont Tech a Pontedera, nel Pisano, www.pont-tech.it. Idea dei due compagni di scuola Emanuele Angione e Antonio Mazzeo, che ci racconta quest'ultimo com'è stata la svolta grazie all'università e alla regione toscana. La lampadina si è accesa grazie a degli amici, a dei colleghi di studio. Noi abbiamo seguito i corsi universitari insieme, avevamo un'idea, quella di aiutare chi stava meno bene di noi e come potevamo aiutarlo. Li abbiamo aiutati pensando ad un sistema che permetta di monitorare parametri fisiologici a distanza, temperatura, pressione, battito cardiaco, semplice da utilizzare, delle dimensioni di un telefono cellulare, che in maniera semplice e intuitiva, indossato dal paziente, trasmette anche da casa i dati. E il medico può visualizzare da remoto la salute del paziente. Questo permette da un lato di migliorare la qualità della vita del paziente stesso e dall'altro permette di ridurre enormemente i costi del sistema sanitario nazionale. Quindi la vostra idea è una soluzione anticrisi che è nata proprio in un momento di crisi. Come ha impattato questo momento di difficoltà economica su di voi giovani, sulle vostre giovani spalle? Guardi, nel nostro caso è stata purtroppo un'opportunità, nel senso che nel momento in cui la regione toscana aveva stanziato dei finanziamenti per le aziende in crisi o per idee innovative, noi abbiamo presentato la nostra proposta, una proposta che già a livello nazionale aveva riscontrato il successo nel premio Giovani Idee Cambiano l'Italia, eravamo arrivati primi come idea su 7.300 idee innovative. La regione toscana ha riconosciuto l'innovatività e le caratteristiche di questa proposta, di questa soluzione, e ci ha finanziato una parte del progetto di sviluppo. Nel frattempo noi abbiamo messo in piedi un gruppo di giovani ricercatori, di giovani ingegneri, attualmente siamo nati nel 2009, attualmente siamo circa 20 persone che lavorano full time in azienda, e siamo riusciti alla fine a predisporre un prodotto che è marchiato CE ed è già commercializzato dal 2010. Insomma, davvero abbiamo usufruito approfitto di un momento di difficoltà per lanciare un prodotto totalmente innovativo che permette comunque alla Regione, al Sistema Sanitario Nazionale, di poter avere forti riduzioni e di poter, insomma, consentire di avere dei risparmi che riusciranno anche a far star meglio comunque le persone. Ecco, quindi trasformare la crisi in un'opportunità, il problema in un happy problem, in un problema felice. Questo è stato possibile grazie a determinate leve, incubatori, concorsi, altre leve, altri aiuti. Quali sono stati e quali sono quelli che suggerite anche come siti internet a chi rivolgersi? Guardi, noi siamo cresciuti in un incubatore nel polo tecnologico di Pontedera, il Pontec. Lì siamo stati aiutati in una fase di prima crescita. Poi, quando i sogni diventano realtà, si inizia a crescere. Ora noi da questo polo siamo usciti anche perché siamo riusciti ad attirare degli investimenti di terzi. Noi siamo stati finanziati nella nostra crescita da un gruppo di business angel, Italian Angel for Growth. Nel nostro consiglio di amministrazione c'è una persona dalle grandi capacità che si chiama Antonio Leone, che è stato vice president a livello mondo di grandi società internazionali nel settore del biomedicale, in particolare Olympus, ed in più siamo stati finanziati nella nostra crescita da un fondo regionale che si chiama SICI, che ci ha consentito di avere la possibilità di accedere anche al credito in maniera più semplice rispetto al normale. Insomma, le leve classiche, le leve finanziarie da un lato, le leve legate alle competenze dall'altro, e poi la possibilità, insomma, di essere incubati ed essere accolti, diciamo, dal mercato e arrivare nel mercato in maniera più semplice, sono state le leve di successo, oltre alle capacità delle persone che lavorano all'interno della nostra azienda. Ecco, avete anche frequentato dei concorsi, quali e a che cosa servono? Noi abbiamo partecipato a 3 sostanzialmente. Il primo, come dicevo, si chiama Giovani Idee Cambiano l'Italia, promosso al Ministero delle Politiche Giovanili, e siamo arrivati primi su 7.000 aziende. Poi abbiamo partecipato al Talento delle Idee di Unicredit, e anche lì ci siamo aggiudicati la fase regionale, siamo arrivati tra le prime 3 aziende a livello nazionale come innovazione di prodotto. Questo ci ha consentito di aprirci un canale privilegiato con il mondo bancario, perché, come lei sa, in questo momento tutte le aziende vengono valutate con un rating. Noi, grazie all'innovazione ed essere riusciti ad arrivare in cima a questa classifica, diciamo, il rating ci è stato considerato, ma solo dopo aver valutato le caratteristiche dell'azienda. E poi ci siamo aggiudicati Startup Toscana, siamo arrivati alle finali di Startup a livello nazionale, e questo ci ha dato una grande visibilità soprattutto sui media. Insomma, partecipare ai concorsi è importante, ma ricordiamoci sempre che il fine ultimo è quello di riuscire a definire in maniera chiara un prodotto, un bisogno di mercato, e riuscire a commercializzare poi questo prodotto, perché il mercato alla fine dà le risposte vere. Quindi le idee ovviamente devono fare fatturato. Voi le stesse leve che avete utilizzato per crescere, per instaurare un circolo virtuoso, poi sono state anche i vostri clienti, le persone che comunque hanno chiesto le vostre idee, i vostri progetti, il progetto Checkup per esempio. Assolutamente, guardi, noi in questo momento commercializziamo già in tutta Italia, abbiamo una rete di agenti diffuse sul territorio, e non è semplice costruire una rete di agenti diffuse sul territorio, specialmente per una startup, e in più in questo momento stiamo aprendo anche delle sedi all'estero, stiamo lavorando prima di tutto in Europa, nel 2013 inizieremo a commercializzare in Europa e nel 2014 andremo oltreoceano negli Stati Uniti. Quest'anno avremo un target previsto di 1,5 milioni di euro, che raddoppia il fatturato dello scorso anno. Insomma, l'azienda continua a crescere, a questo punto è necessario, come dire, che anche la finanza ci sostenga, perché creare il circolante è necessario per poter continuare a crescere, è fattore dominante, fattore importante di successo. Quindi è molto importante anche creare un humus, cioè un terreno fertile affinché crescano e continuano a crescere queste aziende, quindi agevolare le reti, agevolare tutti gli strumenti che queste imprese utilizzano con le idee anticrisi per avanzare, insomma, nel loro business, e anche per far risparmiare, perché voi fate risparmiare e pensate alla salute, quindi c'è un cerchio che si chiude. La creazione di rete è fondamentale se si vuole continuare a crescere. Noi sul territorio lo stiamo facendo rete con altre aziende che lavorano nel medesimo settore. Per poter crescere serve una dimensione ottimale, e solo con una dimensione ottimale e con la capacità di innovare che le piccole e medie imprese hanno in Italia è possibile riuscire a, come dire, a chiudere quel cerchio che lei diceva prima, migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre i costi per il sistema sanitario e fare in modo che anche in Italia possano arrivare tecnologie innovative e si possa continuare a crescere. L'Italia può crescere, può continuare a crescere, può riprendersi soltanto passando alle piccole e medie imprese attraverso la capacità di ricerca e innovazione tecnologica che queste hanno.